Va bene, poi se ci ascolti scoprirai, perché magari verso la fine, se riusciamo, sveliamo anche un pochino questo cotè musicale con un ascolto, anche se in realtà i tempi sono strettissimi, perciò mi dispiace che non ci sei, perché la puntata è così anni 80 che secondo me potrebbe piacerti per certi versi. Anni 80? Ho appena visto una mostra abbastanza anni 80, la Galleria Alberto Perla. Bene, di Thorsten, non mi Kirchhoff, una cosa del genere. Io ti mando un abbraccio e ti saluto lanciando l'atmosfera. Ah, mi scarichi così? Subito, siamo in ritardo. devo fare altre telefoniche, mi dispiace Pasquini, ciao. Allora, buon divertimento, ciao Francesca, sopportala, ciao. Ma ci. Però prima fatti dire che con cosa ti saluto. Ti saluto con un'opera che è stata composta da Caterina Barbieri, dico bene Francesca, e che è parte della colonna sonora del lavoro De Facto, che è questa, l'abbiamo un po' chiamata anche quadrifonia espressiva, di cui andremo a parlare nel corso di questa puntata, e questa puntata è proprio dedicata a questo lavoro, che aprirà la rassegna di teatro per il 36esimo anniversario ricorrenza delle vittime della strage di Ustica. Mi sono un po' impaperata, perché a me a parlare di al coxo di cose così serie, ecco, questa è la reazione. Esattamente, infatti quello che pensavo è posso salutare anch'io con un bel what the fuck from Torino. Va bene, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Era un leone. Sì, un leone. E invece questo cos'è? Questo è Subject to Drift. È un brano appunto di Caterina Barbieri. Ma quello che volevo invece trasmettere io, che è... Sì, perché lo stiamo ascoltando come tappeto sonoro. Invece, provo a riaggiornare la pagina, perché ho il link del SoundCloud, del lavoro, che appunto accompagnerà, creato apposta per De Facto. Quindi vediamo se parte, che partiva tanto spontaneamente prima, adesso un po' no. E cosa è successo qui? Strano. Non lo so. Non me lo... chissà perché. Show more, De Facto. Va bene, allora io facciamo così. Intanto alzerai il volume su questa traccia di Caterina, che comunque richiama le atmosfere sonore che accompagneranno questo lavoro. E ci risentiamo tra un po' e avremo in linea anche Andrea Mochi Sismondi, che insomma comincerà ad entrare, che ci racconterà come nasce questo lavoro e perché è così in chiara relazione con gli eventi di Ustica. Bene, bene, bene, ritorniamo in diretta e siamo già in ritardissimo, cara Francesca, intanto che sciogliamo il dilemma, magari ce lo dice Caterina se veramente è musica sua, perché qui con SoundCloud non riusciamo a trovarci un granché. Intanto, come anticipato, però, questa persona, adesso verifichiamo anche con te se è veramente la persona che mi ha detto al telefono. Sei Andrea Mochi Sismondi? Credo di essere Andrea Mochi Sismondi. Che dici, Francesca? È lui? Mi sembra lui. Perfetto, almeno la verifica vocale. Sì, tu hai posso idea, garantirlo. Tu hai idea se la musica sotto potrebbe essere di Caterina? Che dici? Guarda, sicuramente non è il Tremer. E quindi lavorerei su quello. I Framer io l'ho trovata nel l'hai frattempo, trovata? Ho trovato la traccia. E allora direi che la mettiamo a chiusura anziché in testa. Che dici, Andrea? Direi di sì, assolutamente. Va bene, allora grazie tanto anche per la simpatia e l'acrobaticità radiofonica che noi del Cox richiediamo sempre ai nostri ospiti, e benvenuto alla 145esima puntata. E, stiamo qui a parlare di De Facto, opera poetica elettronica dagli atti dell'istruttoria di Rosario Priore, con una produzione di Ateliersi, nello specifico di e con Fiorenza Menni, Andrea Mocchi Sismondi, con Francesca Pizzo, le musiche composte ed eseguite da Caterina Barbieri, che le chiediamo già scusa se non è la sua musica, ma rimedieremo nelle prossime puntate, immagini video di Giovanni Brunetto, ed è una creazione originale per il Giardino della Memoria. Esattamente. Fin quando leggo il comunicato stampa vado bene. Ma, ottimo, allora magari ti racconto un po' come nasce questo lavoro. Certo, perché gli atti dell'istruttoria di Rosario Priore sono un testo di 5.000 pagine, se non erro. Sentivo. Esattamente. E per me è già un'immagine di un qualcosa che difficilmente riesco anche solo ad immaginarmi come possa essere. Pensare di che ci sia un lavoro che nasce su una riflessione proprio, oppure anche concretamente su questo testo, questo tipo di testo, mi piace tantissimo. Mi aiuti a capire un po' meglio com'è andata? Guarda, intanto a livello di immagine te la racconto. Si presentano come 12 volumi di 3-4 centimetri di spessore, bianchi, sulla libreria di Rosario Priore. Quando siamo andati a trovarlo un paio di settimane fa, abbiamo proprio avuto il contatto fisico e materico con il lavoro di 9 anni di indagini. Ricordiamolo un attimo per chi si fosse messo in ascolto adesso, è il giudice che ha determinato nel 1999 il fatto che a Ustica fu propriamente un atto di guerra, guerra di fatto e non dichiarata, e questo dal 1999 è stato sancito. Esattamente. Dopo l'abbattimento dell'aereo nel 27 giugno 1980, si sono proposte una teoria di ipotesi diverse che hanno gareggiato sui media e nelle varie direzioni che hanno preso le inchieste e le indagini, fino a che Rosario Priore finalmente, dopo 9 anni di istruttoria, perché lui prende in mano l'istruttoria nel 90, quindi già 10 anni dopo il fatto, arriva alla conclusione che l'aereo è stato abbattuto durante un atto di guerra, e in particolare durante un'azione di intercettamento di un aereo militare che era nascosto sotto la scia del DC-9. Da lì partono poi i tre gradi di giudizio che porteranno purtroppo a ritenere ancora ignoti gli autori della strage, porteranno alla prescrizione che i reati più gravi di inquinamento delle prove e di depistaggio a carico di tutti i componenti della gerarchia militare, dal semplice radarista che era davanti alla sua console e quando gli è stato chiesto di consegnare i dati ha mentito spudoratamente raccontando di non sapere interpretare quelli che sono gli elementi di base del suo lavoro, fino poi ai quattro generali che sono stati accusati di alto tradimento perché hanno impedito agli organi eletti democraticamente, quindi al Parlamento e poi di riflesso all'esecutivo e al Presidente della Repubblica, di esercitare le loro funzioni di ricerca della verità, sostanzialmente nascondendola attraverso la distruzione delle prove e l'immissione di sempre continue false piste. Quindi da questo testo? Storie reali, storie che vengono ad emergere nel corso degli anni, dopo così tanti anni. E mi chiedo come ti sei misurato con questo testo? Ti sei approcciato per giungere all'esito? Guarda, per me è stato come entrare dentro una cattedrale. Pian piano si orienta, si iniziano a capire quali sono i pilastri portanti, si inizia a vedere le figure nelle vetrate, ci si inizia a orientare nelle diverse cappelle laterali, si percorrono le navate. Pian piano l'edificio prende una forma e prende una sua abitabilità, e pian piano ti inizia a parlare, ti inizia a raccontare, e iniziano a emergere i diversi stati d'animo, anche emotivi, che hanno contraddistinto l'evoluzione dell'istruttoria. E poi da questo lavoro, appunto da queste 5.000 pagine che hanno occupato le nostre giornate nello scorso anno, abbiamo tratto le parole che meravigliosamente Francesca canta e Fiorenza pronuncia, e insieme pronunciamo. E qui infatti giungiamo alla questione della quadrifonia espressiva, se vogliamo, perché a partire da questo testo i diretti partecipanti all'opera hanno reinterpretato, ciascuno con la propria specificità linguistica, le suggestioni, le immagini che sono derivate da questo testo, dico bene? Esattamente, nello specifico con Francesca, che saluto, che è lì in studio, abbiamo lavorato su come da queste parole, che sono parole sedimentate, appunto puoi immaginare come nasca un testo di 10 pagine da un bacino di 5.000 pagine, 9 anni di indagini e poi un tale carico di storia. Esatto, un tale portato di vita, insomma, soprattutto Fiorenza ha lavorato per far nascere da quelle parole il canto, e adesso lo vedremo, ne parleremo insieme lunedì sera dopo lo spettacolo, ma per me il risultato è veramente splendido. Ok, allora facciamo così, visto che Francesca Pizzo, oltre ad essere un'ottima interprete multidisciplinare, è anche super coxicamente precisa e mi ha trovato la famosa traccia di Caterina Barbieri, la mettiamo in play e sentiamo un attimo quali sono le atmosfere, ci lasciamo portare più addentro rispetto al portato drammaturgico di questo lavoro. Che dici? Che meraviglia, assolutamente. Va bene, allora tiro sulla levetta, Fra. Tira su. Vai. Il brano sta per cominciare. Eccolo qui. Thank you. 145esima puntata di Coxo Spaziale. Fedra Boscaro, Boscaro che dir si voglia, in studio con Francesca Pizzo, che è Francesca Pizzo, in collegamento telefonico Andrea Mochi Sismondi. Stiamo parlando di De Facto, un'opera poetica elettronica. Abbiamo appena sentito un brano composto da Caterina Barbieri, grazie, è composto apposta per quest'opera. E siamo ancora in linea con Andrea. Sì, assolutamente. Che, come va il riverbero? E ti confermo che è Caterina Barbieri. Ok, perfetto. E quindi a questo punto parliamo di, cioè, questa è traccia di come Caterina ha interpretato questo lavoro. Poi la questione elettronica e gli anni Ottanta, con il loro portato di immaginario sì, elettronico, digitale, agli albori, c'entra molto, perché in effetti molte dei documenti e anche delle tracce che sono state anche trafugate, come dicevi tu, di cui è stata dichiarata l'impossibilità di interpretazione per il caso di Ustica, effettivamente erano digitali e avevano proprio anche l'estetica di quella ricerca visiva che stava cominciando ad agire, a muovere i primi passi, sì, in quegli anni. Siamo proprio in quel momento, nel passaggio dall'analogico al digitale, negli stessi centri radar, quindi lì dove i centri radar erano analogici si va alla ricerca di fogli e foglietti che sono stati strappati o di trascrizioni, e nascevano i primi centri radar digitali del sistema NEGE della NATO, e quindi iniziano a nascere quegli schermi che noi conosciamo, che poi si sono trasformati anche nelle console per giochi di guerra privati e infantili. Questo immaginario, diciamo, che è anche un po' sullo sfondo del lavoro che Giovanni Brunetto, che si è occupato della creazione delle immagini video, che ha insomma convogliato la sua creazione in questi termini, sì, in questo lavoro. È stato molto interessante ragionare con Giovanni sulle immagini degli anni Ottanta, appunto gli anni Ottanta come inizio della barbarie, come inizio di un'atmosfera ludica che in qualche modo sovrasta e tende a seppellire una serie di istanze e di germogli che erano nate negli anni precedenti. E questo lavoro, appunto, che è molto, molto, se vuoi, anche molto leggero, che Giovanni fa su questo immaginario degli anni 80, dell'inizio degli home computer, dei primi PC nelle case dei cittadini normali, insomma, che riescono a stare dentro una casa, e le prime interfacce che permettono di interagire attraverso i primi videogame, è molto, molto interessante da questo punto di vista il lavoro video che fa Giovanni, mettendo insieme, appunto, sulla gravità e pesantezza di mirini, di coordinate, di numeri, di tutto ciò che ha contraddistinto 36 anni di processi, perché poi i processi sono ancora in corso, nel senso che i tre gradi di giudizio sulla sentenza ordinanza si sono chiusi, ma dalle dichiarazioni di Cossiga adesso partire le rogatorie, quindi siamo ancora all'interno di una dimensione processuale di ricerca. E su tutti questi elementi, sono dentro le 5.000 pagine di Rosario Priore, ce ne sono tra i 2.500 e i 3.000 notizie, e dietro le 5.000 pagine della sentenza ordinanza c'è più di 1.000.000 di pagine di atti, di plichi, di perizie, sul quale poi lui ha espresso diciamo, il suo giudizio. Prendo al volo la parola espressione per ricollegarci un attimo al percorso espressivo che è stato fatto da Giovanni, da Caterina. Per te il lavoro di misura sul testo, tra l'espressione originale del giudice e il linguaggio poetico, e qui abbiamo invece Francesca che in qualche modo anche lei ha trasformato. In che modo? Forse adesso potrei chiedere direttamente alla nostra ospite che finalmente in che modo ti sei misurata con questa esperienza? Come hai trovato il percorso? Ma allora, di certo in una situazione simile bisogna muoversi con cautela, perché per me è la prima volta che si tratta di interpretare un ruolo al di fuori dall'ambito strettamente musicale. E quindi ecco, Fiorenza Manni ha avuto una grande pazienza nell'indicarmi quale fosse la via per arrivare con grandissima morbidezza a parlare di qualcosa di così delicato. E quindi insomma c'era necessità di farlo appunto buttandosi, quindi anche con una sorta di leggerezza e ovviamente con tutto il rispetto del caso, perché andare a cantare un testo che poi è quello dell'istruttoria stessa è un'operazione ambiziosa. Mm-mm. Ambiziosa, preziosa, poi la parola morbidezza c'entra ed estremamente ricca anche. E poi, allora, io adesso ho l'ansietta delle 7:30 perché tra un po' parte la pubblicità, quindi non so bene come fare. Ci salutiamo per il momento, Andrea, e ci risentiamo e dopo. E poi io qui accanto Fiorenza, che magari ci risentiamo anche con lei. Meraviglioso, meraviglioso. Allora, dopo la pubblicità noi andiamo con le menzioni che ve le risparmio. No, vabbè, sono menzioni meravigliose anche in questo caso, poi Francesca vi racconterà. Vi richiamo subito dopo, saranno le 45, va bene? Perfetto. Grazie mille, tardi. Ragazzi, a tra pochissimo. Ciao. Cox spaziale. E rieccoci. Pronto, mi sentite? Qua attenzione, perché la nostra sede è in via di è in procinto di decollo, stiamo per cambiare quartiere qui, ma tutti quanti ci portiamo dietro anche la granella dei mattoni che spargeremo per la città. Comunque, detto questo, scusatemi, io sono ancora qui, questa è Cox spaziale, sono Fedra. 145esima puntata di Coxo Spaziale. Adesso, insieme a Francesca Pizzo, dopo tante settimane affronteremo le menzioni. Come stai, Francesca? Ti senti carica per questo momento? Carichissima, penso che ne sbaglierò la metà, però andiamo. Io poi sono anche bella dislessica, quindi va bene. Allora vado col jingle, sei pronta? Sì. L'angolo della menzione. Vai tu con la prima? Vado io. Giovedì 23 e venerdì 24 continua Ombre Lunghe all'Ospedale Bastardini. La rassegna, dedicata alle nuove sonorità del panorama della musica elettronica, offre una fitta programmazione in cui si alterneranno live acts di musica elettronica, DJ set e proiezioni di artisti italiani e stranieri. E in più abbiamo anche una menzione con Telefonica. Infatti è qui con noi Federica Patti, che in qualche modo, adesso ci spiegherà anche come, è parte di Ombre Lunghe e ci racconterà anche un pochino meglio qualcosa di queste giornate. Sei ancora lì, Federica? Ci sono. Meraviglia. Ciao, buonasera. Come va col riverbero? Ci senti? Sì, vi sento forte e chiaro. Scusate le macchine di passaggio, ma essendo qui in via d'Asiedio all'ex ospedale dei Bastardini, nonostante la ZDL, ma perché tu sei già nel pieno delle attività, perché le attività a Ombre Lunghe iniziano verso le 7, se non sbaglio. Sì, abbiamo aperto le porte alle 18 e apriremo anche domani alla stessa ora e dalle 19, quindi da pochissimi minuti abbiamo cominciato con il DJ set in cortile. Alle 20 cominceranno i live nella sala dedicata ai contenuti internazionali e cominciamo con due live audio-video proposti dall'etichetta Arboretum. Seguirà poi il live di Presente, quello di Daniele Guerrini, quello di Zuli e quello di 111X. Quindi già stasera una serata ricchissima. Ieri abbiamo fatto il debutto, è la prima edizione di Ombre Lunghe, ma siamo molto contenti perché la risposta del pubblico è stata veramente entusiasta e la location si presta a questo tipo di manifestazioni, quindi vi aspettiamo. Meraviglioso, non voglio rubarti altro tempo, che avrai sicuramente un sacco da fare, magari poi ci ritornerai in mente nella prossima menzione, perché si tratta proprio di una cosa che farete lì e che coinvolge anche De Facto, dico bene? Esattamente, domani abbiamo una programmazione altrettanto ricca e variegata, che proprio comincerà con una delle incursioni di De Facto, e De Facto è lo spettacolo che debutterà il 27 di giugno, lunedì prossimo, al Parco della Zucca in occasione dell'anniversario della strage di Ustica, e però insieme ad Ateliersi abbiamo pensato di diffondere, insomma, quelli che sono i contenuti, così come le riflessioni che questo anniversario porta, attraverso collaborazioni con delle realtà che ci sono affini. Quindi Ombre Lunghe è una di queste. Ombre Lunghe è una manifestazione curata dall'associazione Live Lab, e a Live Lab sono ormai 2 anni che lavora in sintonia e all'interno delle mura di Ateliersi. Quindi domani ricambia un po', diciamo, l'accoglienza ospitando un talk che animeremo io e Caterina Barbieri, e i contenuti video di Giovanni Brunetto, che anticipano in parte lo spettacolo di lunedì. Non potevo non mettere lo stacchettino. Grazie Federica, sei stata meravigliosa. E ci vediamo grazie prestissimo, voi, allora, e buon lavoro, buona Ombre Lunghe, grazie. E poi ci vediamo un po' dopo che si corre là. Ciao. Ci vediamo dopo, vi aspettiamo. Ciao. E invece noi continuiamo con la seconda menzione, che è appunto venerdì 24, la appena citata De Facto Talks con Caterina Barbieri e Federica Patti, e De Facto Visual Night Incursion di Giovanni Brunetto all'ospedale. Ma non solo, perché venerdì De Facto Talk raddoppia. Perché alle 19 saranno anche a Milano Marittima, stavolta con un talk condotto, insomma, guidato da Andrea Mochi Sismondi, e poi sempre l'accompagnamento visuale di Giovanni Brunetto. Io adesso credo che intanto che devo mettere un breve brano. E per rimanere negli anni Ottanta potremmo ascoltare uno dei brani che abbiamo tirato giù prima. Perché no? Kate Bush ci potrebbe stare? Sì. Sì, allora vado con lei. Che lenta lenta arriva. Wow. Wow. Yeah. voce. Anche dimmi qualcosa anche tu, Francesca, per favore. Kate Bush ha una voce d'angelo. Io a parte che scompaio di tanto in tanto, cosa succede? Non lo so, che il mixer sta già andando verso la nuova sede, quindi io devo inseguirlo. Si è avviato. E no, che anche quando sento parlare Francesca io sono contenta. Ma che bellezza. E quindi mi confondo un attimo, ma non devo tenere la rotta, perché abbiamo recuperato il ritardo, siamo precisissime, la rotta con l'angolo della menzione. E quindi continuano le menzioni, sabato 25 alle 19:30, perché in concorso con le persone non identificate occultava, ho letto bene? Sono più così. o meno, sì. Sì, ad Ateliersi, e siamo in uno di quelli che sono gli eventi preview, incursioni dei temi in altre sede di De Facto. Quindi un reading con musica, tra parentesi LFO, cancelletto 6. Sai cosa vuol dire tu? Immagino che siano gli artisti coinvolti. Ah, ok. Potrebbe essere. Io so che dovrebbero essere gli studenti del corso del conservatorio che al conservatorio è stato condotto da Fiorenza Menni insieme a Francesco Giomi. Penso di sì. E quindi abbiamo appunto questo reading dalle imputazioni della sentenza ordinanza di Rosario Priore, voce Fiorenza Menne, musicisti Laura, oddio mio, questo non riuscirò mai a dirlo giusto, Agnus Dei, grazie, Jacopo Bacci, Rene Cassarini, Vincenzo Germano, Giorgio Spedicato e poi un Matchweo con Conduction di Francesco Gnomi. Comunque i nomi corretti e tutti quanti i link, le varie identificative del caso, da domani le trovate su www.coxospaziale.blogspot.com, e chiedo umilmente scusa per la dislessia galoppante. Alle ore 20 invece lo faccio dire alla magnifica voce di Francesca Pizzo. Oddio, arrossisco. Alle ore 20 per Aspera, festival nella città metropolitana a Castelmaggiore, prima tappa della programmazione che per Aspera Festival organizza nella città metropolitana. E qui c'è un piccolo refusino che ho tagliato. Ci sono tre lavori, tre performance, di cui parleremo tra poco. Sì, perché abbiamo proprio in telefonica, la seconda telefonica delle menzioni della 145esima puntata di Cox Spaziale, niente popò di meno che Maria Donnoli, che è il cuore, la mente di Peraspera, e anche il cuore, dai, perché siete tutti corizzati. Sì, non solo io, ma anche il mio Ruffolo, Vincenzo Scorza. Sì, ma diciamo che tu sei quella che coordina un po' meglio, gli dice va bene ragazzi, adesso facciamo questo, facciamo quello, e poi miracolosamente la torta viene fuori, come diceva qualcuno dei miei insegnanti di tanto tempo fa. Ciao Fedra. Ciao Maria, benvenuta al Coxo, grazie per essere qui con noi. E grazie, quindi, a voi. Per Aspera anche quest'anno va nella città metropolitana dopo il successo della versione al TPO, quella più urbana. Sì, più. Sì. Abbiamo fatto 4 giorni, dal 16 al 19 al TPO, e adesso sabato 25 ci spostiamo appunto nella città metropolitana. È la prima di 4 appuntamenti, perché avremo anche il 29 a Budrio, il 2 luglio alla Rocchetta Mattei a Grezzana Morandi e il 6 luglio chiudiamo a Casalecchio di Reno. Quindi 4 giorni in città e 4 giorni fuori nella meraviglioso città metropolitana. Meraviglioso. Quindi la prima tappa a Castelmaggiore con Filippo Tappi, Lara Russo e il duo La Candida and Tabash. Esatto. E tra l'altro è il comune Castelmaggiore, però è la Villa Salina, che è una villa del Cinquecento che ospiterà per Aspera, è veramente attaccata a Bologna, infatti si raggiunge anche con l'autobus 27B. Ottimo. Oppure la fermata è 1° maggio, oppure con il treno alla fermata Corticella, quindi è veramente molto semplice da raggiungere. È una villa del Cinquecento immersa in un parco, molto fresco, atmosfera rilassante, insomma classica per Aspera. Ritorniamo nelle ville come Villa Mazzacorati, che tu conosci molto bene. Sì, ma poi anche castelli, torri, altre ville, insomma la tradizione di Peraspera di andare a riabitare, rivivere questi luoghi che sono di pregio o anche di recupero. Ricordo anche qualcosa l'anno scorso a Casalecchio, se non sbaglio. Assolutamente. Sì, avevamo un ex albergo dismesso. Sì, questi posti che vengono riabitati dal site specific, qui invitate gli artisti. Sì, e come al solito abbiamo questi tre lavori che sono in successione, per cui il pubblico può iniziare ad arrivare dalle 20, effettivamente gli spettacoli iniziano alle 21 e andiamo avanti fino alle 23:30, mezzanotte circa, insomma poi vediamo, e con Filippo Tappi, ed è praticamente con Filippo Tappi ritorna la parola all'interno di questa edizione di Peraspera in cui c'è pochissimo parlato, abbiamo molto corpo e poca parola. Filippo Tappi riporta la parola, lo fa in una maniera molto particolare perché gli attori in scena sostanzialmente contraddicono quello che la parola afferma, per cui ritorna la parola ma per essere contraddetta. Questo non vogliamo bene alle parole. Il suo lavoro si chiama Con tendenza a perdere e sarà un lavoro per poche persone alla volta e si farà all'interno di una cappella, della cappella che si trova nel parco di Villa Salina. Molto interessante. Carino, sì, ci piace. E invece la Candida Tabash portano un lavoro che convoglia suoni elettronici e video live, il loro lavoro si chiama Searching a Total State, analizzano sostanzialmente il rapporto che c'è tra l'umano e la macchina e il dominio dell'umano sulla macchina. Molto pregnante anche questo. Quindi multimedialità, parola che ama essere contraddetta e espressività pura del corpo con la coreografa Lara Russo e il suo lavoro Papelao con un danzatore in scena, si chiama Lucas Delfino, e tanti cartoni che costituiscono, che abitano lo spazio scenico, che vengono costruiti e decostruiti per esprimere l'urgenza intima del movimento, che viene dapprima protetta da questi cartoni e poi decostruita. Beh, non vedo l'ora di venire a vedervi sabato. Sono proprio codici interessanti, soluzioni interessanti, e anche il posto deve essere meraviglioso. Sì, noi ti aspettiamo. La cosa importante che volevo dire agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Fujiko è che l'ingresso è con contributo libero. Ok, assolutamente sì. Nella città metropolitana è offerta libera. E per tutto, immagini e informazioni più specifiche, rimando a www.coxospaziale.blogspot.com, dove troverete tutti i link per andare a vedere più nello specifico questa programmazione che ci ha presentato Maria Donnoli in maniera veramente e coxicamente galattica. Ecco. Ciao, grazie mille. Maria, grazie mille anche a te per la simpatia. Aspetta, e anche per un abbraccio. Ciao. Ciao. Odorous whim, have a eye flick shot within. assist me to walk away in sin. Where is the string that Theseus laid? Buy me out this labyrinth lane. Or taste a tart and eat my lunch. Unfrost my slender, thin and lean in this solemn place of filled wedding dreams, of black matted lace, of pregnant cows. As life maps out onto my brow, the card is loaded, index turn into my filing cabinet, have a spread spread. La 145esima puntata di Coxo Spaziale sta volgendo al termine. Siamo all'ultimo slot in compagnia di Francesca Pizzo e siamo anche all'ultima menzione, che è la menzione sulla, attorno alla quale, ma si sentono questi ronzii della mia voce? Io un po' li sento. E la mia voce adesso si sente? Benissimo. Ok, perfetto. Non si sente più. Non si sente. Istantaneamente è scomparsa. Va bene, il canale della voce regia è già andata nella nuova sede e rassegniamoci. Comunque lunedì 27 alle ore 21 e 30 De Facto, opera poetica ed elettronica, il lavoro di cui abbiamo parlato, qui abbiamo, siamo stati felicissimi di dedicare la 145esima puntata di Coxo Spaziale. Come dicevamo, uno spettacolo di ateliersi costruito a partire dagli atti della sentenza ordinanza formalizzata dal giudice istruttore Rosario Priore nel 1999 in merito alla strage di Ustica, ed è una produzione di ateliersi in collaborazione con l'Associazione Parenti delle Vittime della strage di Ustica. L'ingresso è libero, fra l'altro. Riprendendo le fila del discorso, eravamo giunti a come questo testo, che è un testo, mi dici se poi non mi si sente più? Adesso, okay. Ora sì. È un testo in cui le parole fanno realtà, che è una cosa che ha detto oggi Andrea in conferenza stampa, che mi ha molto colpito, come queste parole realmente facciano realtà in maniera ancora più significativa. E quindi la scommessa di farne una realtà altra e trasformata ulteriormente dall'interpretazione, dall'espressione di quattro codici linguistici diversi: l'azione performativa, l'arte visiva, la musica e la presenza fisica. Questi gli elementi che comporranno questo incontro. E sono qui in studio con Francesca Pizzo, che ci mette il corpo, e al telefono abbiamo Fiorenza Menni, che pure ci mette il corpo e ci ha messo anche tanta testa. Fiorenza, ci sei? Sì, ci sono, ciao Fiorenza. Ciao, grazie per essere qui con noi. Ciao Fiorenza. Con Riverbero come va? Bene, bene, okay, direi. Va bene. Quindi vorrei chiedere a voi due, che avete lavorato a Contatto, come vi siete addentrate in questo percorso che, come dicevi tu, lega in uno stesso percorso provenienze completamente diverse. Eh sì. Sì, certo. Beh, dunque, per me proprio la creazione di un'opera è esattamente costruire la possibilità che ci sia un percorso di situazioni, cose un po' distanti tra loro, che però forzandole, e qui sta secondo me il divertimento e anche la risoluzione, diciamo così, che poi porta alla creazione di una possibilità di condivisione nuova. E quindi è stato così. Ora ovviamente non mi appare più così, ormai gli elementi si sono avvicinati. e la cosa più bella secondo me è poi come il risultato arriva in una maniera quasi, non so, è un gioco che rilascia una tale divertimento e possibilità anche proprio nel quotidiano, nella vita, quando siamo lì a lavorare. Ti faccio un esempio: per me riuscire ad accostare la voce di Francesca alle parole di Rosario Priore, non so, è come essere riuscita ad arrivare in un luogo tanto desiderato, tanto ce l'ho fatta, sono arrivata, ho visto la giungla, ho visto quel fiore, ho visto quella possibilità. A questo punto lunedì 27 diventa una meta che non vediamo tutti l'ora di raggiungere. Tra l'altro ho avuto la fortuna di vedere qualche altro vostro intervento o applicazione, come forse usavate chiamarli all'epoca, per lo stesso evento, e sono sempre state cose molto, certo, toccanti e lucide e toccanti allo stesso tempo, quindi non vedo veramente l'ora che sia lunedì, e sono estremamente contenta di avervi avuto qui per questa puntata, e siete stati molto pazienti tutti quanti con le varie vicissitudini, telefonate, incroci. Di cosa, grazie a te dell'ospitalità, della cura e della tua sempre, insomma, capacità di cogliere e di rilanciare. Vabbè, ringraziamo a questo punto allora anche Tihana, se si parla di cura, perché certo. È una collega che è invidiabile sotto molti profili, ed anche, come direbbe Pasquini, una gran bella gnocca. Perché Pasquini va citato quando infatti va bene. Allora, Fiorenza, io al momento ti saluto, è stato velocissimo e ti ringrazio per questo contributo, ma ho appena saputo che il programma dopo ha un ospite che deve scappare via, quindi mi chiede addirittura di essere super puntuale, quindi ti ringrazio tantissimo per questo contributo. Ci risentiremo più avanti con novità su Ateliersi, e ci vediamo sicuramente lunedì. Benissimo, allora ci vediamo tutti quanti lunedì. Grazie ancora. Ciao. Ciao, ciao. E Francesca, tu mi hai parlato troppo poco. Ah, veramente? Veramente, mi hai parlato troppo poco, te volevo di più. Mi prometti che mi ritorni? Certo, volentierissimo. Ma così svegliamo anche a Pasquini questo altro tuo cotè musicale. Ah, beh, certo. Mm. Ma anzi, mi stupisce, io pensavo che lui dicesse: la conosco come musicista e non come artista visiva. Invece no. Anch'io del resto ti conoscevo prima come mi hai conosciuto che ero un marasma di cose. È veramente molto ben bilanciato. Comunque adesso facciamo anche una foto, così per chi ci ascolta saprà da domani su www.coscolo.it. Mi sto impappinando tantissimo. Sai cosa saprà? Il caldo che fa. Cioè, ci vedrà tutte terribili. Va bene, adesso vediamo se sono arrivate le pubblicità delle 7, delle 8. Non sono arrivate, ma forse potremo far partire un brano e poi le mette su colui che animerà la prossima puntata di Paura in palcoscenico, Stefano Migliore.